Buonasera dallo stadio olimpico di Libertopoli. Come potete vedere il pallone è al centro del campo, perché sta per iniziare la finalissima della Coppa delle Coppole, la finale più attesa tra le due squadre pronosticate alla vigilia, ovvero i colletti bianchi e i colletti sudati. A dirigere la partita un manipolo di arbitri in divisa nera armati fino ai denti. You're not-